死。 Thank you.

quel nome? No. Quel nome? La possiamo dire per voi, ma venire non può. Perché gridi? Lasciatela! Principissima, Che non ho

天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you. Thank you.